Festival in altri suoni è un'anticipazione. Oggi vi sarà alle ore 12 la conferenza stampa ufficiale, 14esima edizione a Bologna. Diverse saranno le sedi della rassegna e del festival: Teatro San Leonardo, Oratorio San Filippo Neri, Palazzo Renzo, il Dumbo e il TPO. È una rassegna musicale sulle realtà elettroniche, su quello che è una sonorità che va dall'ambient alla minimal techno, e di quello che parleremo con una label che è la Compact, un'etichetta tedesca che ha dato a queste sonorità una grande ricerca e un'importanza. Quindi avremo modo poi, tramite le voci di Edizione Robot 2023 all'interno di altri suoni del nostro Last Minute, quando ne avrò la possibilità dopo la conferenza stampa di presentazione, anche di sentire in approfondimento quello che sarà. Ne ho approfittato per quest'oggi per dare voce anche al suono di questa label che è la Compact Disc. Come vi ho detto, tra l'ambient e la minimal techno e tante altre sonorità, dal field recording al noise, insomma diverse sono le frange che noi prendiamo anche all'interno della rubrica Altri Suoni neonata qua sui 103.1 all'interno del Breakfast Club. La Compact è una label tedesca. La Germania con la techno ha avuto una grande importanza, come allo stesso modo ha avuto importanza Detroit. Ne parleremo nel Mood Groove, magari con The Detroit Experiment di Carl Craig. La Compact, restando invece per dare uno spazio più completo a questi suoni in ambito minimal, scarni, incisivi, taglienti, ma allo stesso modo anche con tappeti che accompagnano la sostituzione di quello che è l'armonia, e una capacità di dare alla musica techno, che intendiamo come musica da club, ecco, una relazione con l'EDM, l'Intelligence Dance Music, una visione che non sia unicamente appunto quella legata alla musica da club, ma anche a quella dell'ascolto. Intanto allora partiamo con questa base techno ripresa dalla Compact Record, e questa formazione di Raumschmir, che come tanti altri musicisti, tra cui anche Jay Jelinek, che è l'autore della nostra sigla, e abbiamo già conosciuto anche altri musicisti, produttori e DJ che si sono cimentati, che hanno portato produzioni di queste note, di questi suoni, di queste sensazioni. Iniziamo, poi ne ascolteremo uno che nel cuor mi sta, anche dal nome un po' particolare, Acufen, presente il fastidio all'orecchio dell'acufene, ecco, lui è Acufen, lo ascolteremo più tardi. Il suo disco è My Way, che secondo me è un lavoro molto interessante che aggiunge anche particolarità a questi suoni. We'll be right back. Ambient che riprende proprio la sensazione primaria del battito cardiaco, dello scorrere del sangue, con questi effetti, una scarnificazione totale del suono. Siamo alla metà degli anni 90, prima metà degli anni 90, sarà ancora più estrema la svolta in elettronica da club, ma in questo caso, come ho detto, l'intersezione e la ricerca con la IDM e con l'ambient ha dato alla minimal techno qualcosa che secondo me riporta in maniera più attenta, ecco, più colta se vogliamo, Tiramshir, come Brinkman, un altro autore per la Compact che ha portato suoni e dischi molto molto interessanti. Vi parlavo di Acufen, ecco, questo disco My Way, vi propongo questo brano che ha una sorta di Matthew Herbert con questi stacchi, con questi microsegmenti, con questi punti che diventano come note, questi piccolissimi frame che li trasforma in suono, no? Li trasforma in scrittura musicale e poi parte la cosiddetta cassa in maniera assolutamente, perché no, anche gustosa. Ecco, questo è una struttura che nella techno non ci fa cadere nel solito sì, la techno tum tum tum, sì, è anche questo, ma come ogni aspetto musicale nella ricerca poi troviamo anche ovviamente motivo di crescita e di qualità. Questo brano di Acufen secondo me molto interessante. Disordinati, apparentemente schizzati, vengono poi raccolti in un 4/4 molto incisivo, gli spazi di ricerca nel mettere insieme questi segmenti, micro segmenti, questi micro suoni, come se fossero note, per poi riunire e dare un ordine con la linea ritmica reiterata. Conosci ascoltiamo Brinkman tra i produttori più prolifici in ambito di techno e minimal techno, la label Compact. Stiamo parlando della techno e la minimal techno che arriva dalla Germania. Saranno altri suoni da Detroit, ovviamente decisamente più black, più rotondi, ecco, il groove sarà più circolare. Anche se è chiaro perché Akufen, perché ha una elettrofunk di base ed anche una particolarità nel gusto, nella ricerca di parti che diventano come istanti, come frammenti, un vetro che si rompe dal quale facciamo un mosaico che uniamo attraverso un pavimento di 4/4 basso e batteria. Questa iniezione mattutina capisco è un po' inconsueto, ma del resto altri suoni è musica inconsueta, se vogliamo, all'interno del Breakfast Club. Abbiamo già presentato e continueremo ad andare in approfondimento per quanto riguarda Angelica, imminente la presentazione di Robot Festival a Bologna, e per quanto riguarda le specificità di serate e incontri per questa 14ª edizione, oggi la conferenza stampa e magari la porteremo anche all'interno di Last Minute o di altri suoni a seconda delle disponibilità di spazio all'interno del Breakfast Club. A breve la pubblicità, poi torniamo insieme per un'altra puntata del Move to Groove nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fusì. A tra poco.